L'ascoltatore medio rimane su un programma per 18 minuti. Il fan medio di Howard Stern lo ascolta per 1 ora e 20 minuti. Ma com'è possibile? La risposta più comune che danno? Voglio vedere cosa dirà dopo. Va bene, d'accordo, perfetto. Ma dimmi un po', le persone che odiano Stern... Buona domanda. L'ascoltatore che odia Stern lo ascolta per 2 ore e mezza al giorno. Scusa, ma se lo odiano, allora perché lo ascoltano? La risposta più comune? Voglio vedere cosa dirà dopo. La zanzara. Tutto il resto è gioia. No, non ho detto gioia. Oi, buonasera Peppe. Ciao Crucials. Butcher. Oggi è una giornata drammatica, una giornata di lutto, una giornata, caro David, segnata da un fatto epocale, da un fatto che rimarrà nella storia, non solo della radio, ma nella storia, credo, del genere umano, nella storia del diritto, nella storia del buonsenso, se vogliamo, no? Oibo. Ma guarda, ovviamente esagero, ma... Di cosa parli? Della manovra di Draghi? No, straordinaria, che manovra di Draghi, no. Ma che me ne frega, non parlo nemmeno questi della Grecia. 1.000 miliardi di No. Un tribunale della Repubblica Italiana, sito in Bergamo, ha condannato in appello, ha confermato la condanna per discriminazione contro il professore, avvocato illustrissimo Carlo Taormina. Allora, cari signori, l'avvocato Carlo Taormina è stato condannato a una pena di 10.000 euro. Per discriminazione nei confronti degli omosessuali. Le frasi sono state pronunciate in questa trasmissione. La frase incriminata è questa: non assumo gay nel mio studio. Adesso, al di là degli scherzi, al di là di tutto, ma possibile mai che uno non può dire una frase del genere, vieni condannato per discriminazione e a pagare 10.000 euro? In 2 gradi di giudizio. Ecco, dai, è arrivato il difensore. È arrivato il difensore. Intanto io, per esempio, nel mio studio faccio una cernita adeguata in modo tale che questo non accada. Cioè, non ho capito, lei, se uno è omosessuale non lo assume nel suo studio? Ah, sicuramente no. Ma professore, ma questa è ma è discriminazione questa roba qua? No, sarà discriminazione, a me non me ne frega niente. Ovviamente io dicevo discriminazione non come condanna, dicevo discriminazione perché ovviamente uno che non vuole assumere un omosessuale, però nessuno si è presentato come omosessuale nello studio del professor Taormina dicendo voglio essere assunto e lui l'ha cacciato. Dai su ragazzi, io difendo Taormina a spada tratta su questa cosa qua, su questo non avevamo ombra di dubbio. Senti cosa aggiunse poi, era l'ottobre dell'anno scorso. Che volevo prendere? Faccia l'avvocato, se è così bravo e così capace di poter fare l'avvocato, si apre un bello studio per conto suo e si fa la professione come meglio crede. Mi turberebbero l'ambiente i gay. Mi turberebbero l'ambiente. Stai sbagliando, perché più me lo fai ascoltare. Se prima ero un po' scettico sulla pena comminata, ora mi tocca. Vabbè, ne parliamo dopo. Mi dispiace, mi turberebbe l'ambiente, sarebbe una situazione veramente di grande difficoltà. Ma sì, ma guardi, ma no, ma proprio hanno un'altra mentalità, altri stili, e parlano diversamente, si vestono diversamente, si muovono diversamente. È una cosa assolutamente insopportabile, guardi. È il contro natura. Oh, la cosa curiosa era, effettivamente va avanti no, più è grave la situazione. Altri stili, io non altro lo farei, linguaggio, se io fossi te non lo farei sentire, se altro, vuoi difenderlo, soprattutto altre cose, ma altro, lo dico per te, si vestono diversamente. Boh, questa cosa qua è nuova, si vestono diversamente, non gli fai un favore difendendolo, facendolo ascoltare. No, secondo me non gli fai un favore. È talmente surreale la cosa, che nel campo quasi della comicità, secondo me. Quasi della comicità. Per cui c'è un tribunale che perde tempo, soldi, impegno, ore per giudicare queste frasi qua. Dai, su, ragazzi. Siamo seri. Ah beh, ma Parenzo non facesse lo stronzo, perché adesso mi ha rotto i coglioni pure lui, Ragazzi, dato che siamo nel surreale, oggi di politica non c'è un cazzo, Battiato dice: credo nella reincarnazione. Questo ha fatto l'assessore alla regione Sicilia. Ti voglio segnalare, signor Battiato. Vabbè, ma è un cantautore, un artista. Credo nella reincarnazione. Vabbè, ma questo lo canta anche delle sue canzoni. Su, che sì, c'entra? No, d'accordo, però è tutto, va bene. Ma ha fatto l'assessore alla cultura. Ma che c'entra? Oh, ma così per dire, uno che poi dice: sì, e Razzi fa il senatore della Repubblica. Sì, non credo nella reincarnazione. Mi guarda che no, aspetta, più che questa. I suoni dei bambini possono venire da altri pianeti, ti giuro. Dice: vabbè, i suoni dei bambini, vabbè, questo... possono venire da altri pianeti. Sì, ma chi fa male? Ma no, ma nessuno, certamente no. A volte, quando nasce un figlio o una figlia che usa una certa onomatopea, diciamo così, quella può venire da un altro pianeta. Non è che la Terra non esiste, questo fatto. Grazie a Dio, negli ultimi anni si è scoperto nell'universo 110 pianeti come la Terra, uguali. Allora, il mitologico senatore Vincenzo D'Anna colpisce ancora nella discussione al Senato. Non so su che cosa, se è ancora sulla legge elettorale oppure no. Senti che dice: il mio partito si accinge a candidare Zechila, detto Ermutanda. È vero che nel mio partito si accinge a scendere in campo Antonio Zequila, detto Ermutanda, e quindi con Ermutanda nel prossimo Parlamento noi certamente avremo la plastica applicazione di questo vadevecum, di questo zibaldone. A scendere in campo Antonio Zequila, che poi Zequila ha detto Ermutanda. Beh, stupendo. Danna, ma che è un bel ambiente. Che è chiaramente un oppositore, no? Del Forza Italia, eccetera, eccetera. Poi senti cosa dice ancora: i nuovi partiti nascono non con la testa di Verdini sul tronco della Boschi. In genere i movimenti politici nascono dall'orizzonte valoriale, dai contenuti, non nascono facendo lo zibaldone o Frankenstein Junior, prendendo la testa di Verdini e mettendolo sul tronco della Boschi, perché sarebbe in questo caso dotare la Boschi di particolari acume, ma Verdini di una bellezza inusitata. Secondo Sgarbi, altro che capolista bloccato dalla nuova legge elettorale, si tratta di... Sentite, Sgarbone. Poi l'idea che tu abbia... La lista, il capolista bloccato, ma bloccato da che? Il coglione bloccato, perché se non fosse coglione correrebbe per prendere i suoi voti. Se ha paura di non essere eletto non deve andare in Parlamento. Ma abbiamo con noi, grande ritorno alla Zanzara, Pippo Baudo. Ciao Pippo, come stai? Ciao Pippo. A tutti. Davide, omaggio a Pippo un attimo. Come no, sempre. Lo abbraccio fortissimo e lo ricordo con grande, grande affetto per la sua partecipazione alla guerra dei mondi, temporibus illis, come diciamo noi. Temporibus latini. Illis, adesso, un anno e mezzo fa. È l'altro ieri. Dai, ma su. Per noi il tempo passa con una velocità. Andiamo avanti, va. Senti Pippo, ma io mi sono domandato in queste ore, ma Pippo, a parte che tu saresti in grado di fare il Presidente della Repubblica, diciamo la verità. Ci mancherebbe altro, o no? Certo. Ma se lo fa Magalli lo faccio io. Appunto, dico, siccome Magalli sta spopolando su web. Capirai. Ma se tu all'epoca eri più popolare di Pertini qualche anno fa, sì, o no? Sì, quando hanno fatto un sondaggio risultavo più popolare di Pertini. Addirittura? Pertini mi chiamò e mi invitò al Quirinale a trovarlo, era... simpaticamente meravigliato, ovviamente ci abbiamo scherzato sopra, sì. Abbiamo passato una serata indimenticabile, dopo quella serata mi disse: cosa posso fare per te? Sì. E gli dissi: perché non fa commendatore mio padre? E lui? Lui l'ha fatto subito. Subito? Ma una raccomandazione pazzesca, cioè. Sì, una raccomandazione al presidente addirittura. Ma come mai tuo padre voleva fare il commendatore così? Una roba... No, mio padre era avvocato, era una persona importante, però volevo fargli arrivare questo omaggio alla fine della sua carriera, forense, eccetera. E Pertini ti fece questo regalo. E quindi arrivò firmato Santo Pertini, commendatore Baudo Giovanni, papà, insomma, io infatti devo dirti che la pergamena ce l'ho ancora. Senti una cosa, ma adesso al di là di Magalli che c'è tutto un gioco online, prende un sacco di voti più dei politici. Guarda che è un brutto segno. Perché? Io sono amico di Magalli, significa la sfiducia nei confronti di chi fa politica seriamente. Vabbè, ma è un gioco su web pure, bisogna dire. No, è un gioco pericoloso perché onestamente chi legge quello, se veramente ci crede, Giancarlo è prima a non crederci. Beh, però ci gioca pure lui, Lui ci gioca, però capisci, se tu incominci a spargere queste voci, va a finire che noi leggiamo il capo del condominio, l'amico nostro, diventa una cosa puerile. Ma non ci vorrebbe ogni tanto, scusami Pippo, è vero, hai ragione te. Ma lui ha il primato del rispetto della politica. Potrebbe essere un segnale dei tanti. Un segnale negativo, guarda che la gente si sta spoliticizzando, cioè questo è gravissimo. Però prima o poi un uomo di spettacolo, si era fatto il nome di Muti, di altri, un uomo di spettacolo... Ma il nome di Muti è un nome completamente sbagliato, con tutto il rispetto nei confronti della maestosità, della maestà di Riccardo Muti, va bene quando dirige, ma non dirigere il Quirinale non è come... È un'altra cosa, No, per carità. Ma insomma, tu allora, il tuo preferito chi è? Ma io non ho preferiti. Ma sì, ce n'avrai uno, dai. No, non te ne sparo nessuno perché ci sono tanti che io sinceramente avrei dato il voto a Prodi al suo tempo. Non l'hanno trombato e lui giustamente si è offeso e adesso non si ritiene più disponibile, perché Prodi è l'unico, uno dei pochi personaggi italiani che ha una conoscenza all'estero, perché è conosciuto all'estero. E allora ancora continua a fare tifo per lui? Perché non lo rimettono in campo? Lo danno per bruciato. Sì, lo danno per bruciato, anche perché lui non vuole più, insomma, è rimasto male. Basta. La bocciatura se glielo chiedono un'altra volta, ha fatto un bello scherzetto l'altra volta, però sì. Ma secondo te c'era Renzi dietro questo complotto contro Prodi l'altra volta? Ma oggi ho letto che addirittura insomma qualcuno dice che era il capo dei 101, l'hanno additato come commentatore della cosa. Io non ci credo sinceramente. E lì c'è stato un gioco di invidie tra di loro. Il professore che viene da fuori dovrà fare il presidente, meglio non pigliarlo, insomma. Ma senti una cosa, ma avrai un tuo preferito, un nome preferito, cioè uno che vedresti bene lì, a parte Prodi? L'ho detto Prodi, te lo confermo. Prodi, anche questa volta Prodi, metti che non in seconda battuta, che ne so, Beltroni. Beltroni era anche una persona molto per bene. Amato? Persona... Amato? Una donna, che so. Una donna? Non trovo donne. La Finocchiaro? No, la Melandri? La Finocchiaro è siciliana come te? Sì, va bene, che significa. Catania, non è Catania, anche lei. Non faccio del campanilismo. Non hai grande simpatia per la Finocchiaro, mi sembra di capire. No, per carità, è una che ci salutiamo quando ci incontriamo, quando siamo insieme sullo stesso aereo, ma insomma. Onestamente, Presidente della Repubblica non la vedo, insomma. Non la vedi, poi c'è un casino, il marito che dà dei problemi, la storia della scorta. C'è qualche problema in famiglia. Sì, la storia della scorta dell'IKEA, no, che la pizzicarono lì, Renzi si scatenò. Ma io sono sciocchezze, però. Insomma, una che si fa portare le cose. Vabbè. Non è bellissimo, dai, diciamo la verità. Tu sei mai andato all'IKEA con uno che ti porta dietro i cosi? Parenzo, sei mai andato? Io? No, ma nemmeno Pippo, ma nemmeno Pippo sarà andato. Ma me lo spingo io. Te lo spingi te il carrellino, no? Ma che scherzi. Vabbè, traffico, torniamo subito con Pippo Baudo. Ho sentito Giuliano Ferrara all'Area Chettina, caro Parenzo, ma scatenato a favore di Renzi. È vero che ha scritto un libro su Renzi, eccetera, ma addirittura dire Renzi è perfetto, cioè Renzi non ha alcun tipo di difetto. Senti Una cosa che non ti piace di Renzi? No, sarà? No, niente. Perfetto. Che diamine. L'ho detto veramente, pensa prima di parlare, che è una cosa che può creare dei guai. E poi non è così, eh. Parla prima di pensare, si è corretto dopo. Pippo, anche per te Renzi è perfetto? Ma no, nessuno è perfetto, non esiste la perfezione. Però tu sei molto renziano, anche no, tu. No, io sono renziano, ma almeno che significa, ma non è che non si può pretendere la perfezione. E che difetti ha secondo te? Ma lui ma bravo. No, ma da uomo politico dico, no? Uomo politico? Innanzitutto. Troppe chiacchiere fino adesso? No, troppe chiacchiere, assume molte responsabilità. Lui indubbiamente, essendo solo al comando, e come quando c'è il campionissimo Fausto Coppi, un uomo solo al comando, è chiaro che rischia molto, rischia la critica dei colleghi, rischia l'invidia dei colleghi, di altri che vorrebbero essere al suo posto. Insomma, il primo attore è sempre non amato dagli altri, dai per cui tutte queste critiche all'interno del Partito Democratico secondo te sono solo invidia, questi qua che si sentono esclusi? Questa è una cosa molto grave invece all'interno del PD, questo movimento contro è pericoloso, perché scardina il partito, cioè non lo fa sembrare omogeneo. Sì. Io capisco bene che non bisogna essere tutti della stessa idea, però bisogna criticare, bisogna indicare delle lacune, delle diversità di opinione, però alla fine bisogna trovarsi tutti insieme verso lo stesso obiettivo, se no che partito. Senti, ma tu sei d'accordo col fatto che il Presidente della Repubblica lo scelgono insieme Renzi e Berlusconi, che praticamente è così, insomma si farà una cosa? Non vorrei che fosse proprio così. Lo so, però è così. Sinceramente sarebbe offensivo nei confronti del Parlamento riunito a votare. Siccome io ancora sono un romantico antico, io attribuisco a questa cerimonia dell'elezione del Presidente della Repubblica un'importanza Lo so, però si fanno gli accordi, Renzi e Berlusconi vorrei che tutti votassero, che ci fosse consenso vero e che non ci fossero due persone che vanno in trattoria, si mettono d'accordo, facciamo TX. Insomma, il patto del Nazareno non ti piace moltissimo, questo patto segreto? No, a me il patto del Nazareno, questi patti non mi piacciono, i patti già non mi piacciono, perché io non faccio patti con nessuno. Ti piacciono più le cose alla luce del sole, diciamo? Sì, patti segreti non mi piacciono. Ma secondo te che c'è dietro sto patto del Nazareno? Anche qualcosa che riguarda la televisione, Berlusconi che vuole salvare qualche cosa della sua roba? Ma no, ma insomma, perché si dice questo. Voglia salvare Mediaset, mi sembra legittimo, perché l'ha creata, ha creato un grosso gruppo, diciamo. Ma sta pensando solo a questo adesso Berlusconi, non è che pensa ad altro, pensa soprattutto alla sua roba adesso. No, pensa alla sua roba, di salvare un'azienda della quale deve essere fiero, perché indubbiamente nessuno avrebbe mai immaginato che Mediaset sarebbe diventato un giorno un grande network televisivo importante. Senti, a proposito, lunedì inizia l'Isola dei Famosi, no? Ma a te piace come tipo di programma l'Isola dei Famosi? Prima ce l'aveva la Rai, adesso ce l'ha Mediaset. Mi hanno anche chiamato per farla, sai. Come t'hanno chiamato? Sì. Cioè t'hanno chiamato per andare sull'isola? Con Rocco Siffredi. Con Rocco Siffredi. Ma ragazzi, con Rocco Siffredi, appunto. Ma che roba è? Ma non è che io ho qualcosa con Rocco Siffredi, che io alla mia età me ne vado, dove lo fanno? In Honduras, non so dove, in Centro America. Me ne vado in Honduras in mezzo all'acqua, le cose. Quanti soldi ti avevano offerto per farlo? Non siamo arrivati alla trattativa, perché ho detto subito di no, perché non sarei capace. Ma questi hanno cercato tutti, secondo me, poi alla fine, per carità, adesso con tutto il rispetto del Pippo Baudo. Hanno cercato con cane e porce, devo dire, no. Quello lo volevo dire. Però insomma hanno cercato un sacco di gente. Ma certo, Pippo Baudo sarebbe stato un grande colpo. Pippo all'Isola dei Famosi. Non ce l'avrei fatta fisicamente questa. Ma come tipo di programma ti piace? Cioè il fatto che un porno star come Rocco Siffredi ci vada è uno scandalo secondo te, no? Ma a me sta storia che lui sia porno star non me ne frega niente, sinceramente. In che senso, scusa? Può fare quello che gli pare, dice che ma a me fa quello che gli pare, se si esibisce, se ha questa di esibizione, ma che esibizione? Questo copione guadagna un sacco di soldi, amico mio. Ma ha ragione Pippo Baudo, è una porcheria. Senti Pippo, ma tu in televisione che fine fai? Ma che fine faccio? Io spero di tornare quanto prima. Alla Rai che succede? Cambiano i vertici adesso, Pippo, alla Rai. Cambiano i vertici. Io spero che mi chiamino, perché ancora sono in servizio attivo permanente, ancora sono in grado di pensare. È una malattia, sta cosa della televisione, non guarirai mai da sta malattia. No, ma perché la malattia, è stata la mia attività per 54 anni. Appunto, dico. È la voglia di lavorare. È una droga, una droga, dai, una droga. È una cosa della quale puoi liberarti, ma io non è che dico cacciate gli altri e chiamate solo me, è soltanto che un angolo per me ci può essere. No, ma assolutamente, però dico, nella testa di una persona è una droga. Comunque, vabbè, Sanremo, come ti sembra questa edizione che sta per cominciare? Ma mi sembra bene, poi Conti è un amico mio, ne parlerò sempre bene. Io spero che sia un ottimo festival e soprattutto che abbia avuto la fortuna di trovare delle belle persone. Ma per una volta ancora lo vuoi fare? Una volta ci hai detto a noi che prima di morire un'altra... Ma io a 80 anni lo vorrei fare. A 80 anni? Quando li fai 80? Oh. Poi mica è tanto tardi. Quando li fai 80 anni? Tra due anni. Vabbè, insomma, a 80 anni, per i miei 80 anni vorrei rifare Sanremo. Sì, come ho fatto con Buongiorno. Buongiorno mi ha invitato come ospite. Sì. Quando appunto io ho raggiunto il numero 13 l'ho invitato ed è venuto come ospite. Ciao Pippo, a presto, ciao, sì, grande. Sì, in forma, in forma. Ciao. Buonasera Peppe. Oh ragazzi, a proposito di Corona, a proposito della vicenda Corona, ancora. No, c'è una questione molto, molto semplice. L'avvocato di Corona, che ovviamente è l'avvocato di Corona e fa il suo mestiere, uscito dal tribunale dove ha chiesto, no, i giudici decideranno entro una settimana, dove ha chiesto l'affidamento ai servizi sociali e, giusto. Poi domanda giusto cosa? Giusto chiedere per un detenuto come Corona l'affidamento, sarebbe umano darglieli. Ma per te è umano dare a tutti i servizi sociali? Sì, ecco, bravo. È umano dare a tutti i servizi sociali, non a chi commette reati terribili e per chi è pericoloso verso gli altri, no, non per questi. Certo, ma come ha scritto Gustavo Zagrebelsky oggi su Repubblica, più si riduce il carcere, più una società cresce e può anche migliorare. Bellissimo, nella società ideale non esiste il carcere. È stupendo, meraviglioso la società, ma non è così banale nel mondo così, no? Nessuno dei fiori, nessun fiore, non banalizzare tutto. Dire buffonate, più carceri, altro che più carceri. E pensi di garantire la sicurezza così con più carceri? Tu sei quello che vuole tutta la gente fuori, dai. No, questa è una banalizzazione. Vabbè, ma non te la consento. Che cosa si può fare per abolire il carcere? Zagrebelsky su Repubblica. Non rompere le balle con Zagrebelsky, di cui non me ne fotte nulla. Andiamo un attimo a qualcuno che ascolta leggerà. Benissimo, leggerà Zagrebelsky. Sì, certo. L'avvocato Chiesa dice che è un sacrilegio tenere dentro Corona. Senti perché? Un sacrilegio buttare via un uomo di questa intelligenza, di questa sensibilità e che per giunta è un fior di contribuente perché ha appena pagato 1.500.000 euro di tasse dal carcere. Allora, è un sacrilegio buttare via quest'uomo come se non si fosse buttato via da solo, un uomo di questa intelligenza. Dunque, i parametri sono l'intelligenza, la sensibilità e il fatto che ha pagato dal carcere 1.500.000 di euro, cioè un grande contribuente, avendo pagato 1.500.000 di euro dal carcere. Non è che è un grande contribuente, che evidentemente questo 1.500.000 è il frutto di una transazione con il fisco per altre cose, non questo è che mi pare evidente, no? Questo sì. Però di Corona voglio, amici miei, siamo andati a ripescare un pezzo formidabile di una sfida grandissima che fece in tribunale, lì mi piaceva Corona, una sfida enorme che faceva in tribunale al giudice. Al presidente di una giuria si parlava del presunto ricatto al giocatore di calcio Adriano. Tappate le orecchie ai bambini per un attimo, sentite come parla Corona davanti al giudice, che poi a un certo punto gli dice: ma lei potrebbe moderare un po' il linguaggio. E non si era alla Zanzara, si era in un tribunale della Repubblica. Ma lei quando parla di bordello, puttana e pisello, ma a quali foto fa riferimento? Mi faccia capire. Le faccio riferimento a questa fotografia, sì, dove c'è Adriano che si è addormentato sul tavolo completamente ubriaco e questa puttana gli fotografa il cazzo, che è in tiro in questo caso. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo? Le chiedo scusa. Le sembra una foto normale di un calciatore di Serie A? Ho capito, ma le sembra una foto normale questa? C'è un calciatore di Serie A sdraiato su un tavolo con una che gli fotografa il pene? Parla di figa, per favore, a noi non frega in caso di niente. Beh, un passaggio passaggio memorabile del tribunale, dove un giudice a un certo punto gli dice: ma lei, ragione, ma lei lo sa dire in un altro modo? Quasi gentilmente, no? Chiede. Se può, usi un sinonimo. Esatto, signor Parenzo. Scontro in Parlamento su Cuffaro. Senti che cosa succede. A un certo punto sai che Cuffaro si è laureato quella settimana scorsa? Sì, sì. E sai con chi? Sì, non in lo diritto so. Diritto romano? Oh, ma non mi interessa con chi sei un laureato con Cuffaro. Con Oliviero Di Liberto. Ma chi se ne frega? Così una nota di ma colore, chi se ne di frega? Il deputato di NCD Cera, NCD, Nuovo Centrodestra, dice che Cuffaro sta scontando la pena con signorilità. Perché non ha chiesto nulla, la grazia gli è stata chiesta dalla madre, tra l'altro Cuffaro è dentro per concorso esterno in associazione mafiosa. Senti cosa dice questo deputato di NCD. Volevo ricordarle che Cuffaro è l'unica persona in Italia che sta scontando una pena con molta molta dignità, per cui giusto per metterci una pietra sopra, di Cuffaro che sta dimostrando nel bene e nel male una signorilità che molti di noi non hanno, prego i 5 Stelle di non parlare più di Cuffaro. A quel punto si scade all'inferno. Senti Cominardi, sempre 5 Stelle. C'era, per cortesia, io non riesco perché... No, prego, Cominardi, vada avanti. Allora, dopo l'intervento di Cera, io non posso esimermi nel non ricordare la figura del povero Marcello Dell'Utri, perché ne abbiamo tanti altri di poveri disgraziati che sono finiti in galera, ricordiamoli tutti. Di Benedetto, 5 Stelle. Quando stamattina il collega Cera ha ricordato in quest'aula la signorilità di Totò Cuffaro per la maniera in cui sta scontando la pena, ha suscitato in me e in molti miei colleghi una reazione di sdegno profonda. Anche perché, Presidente, a microfono spento il collega Cera ha anche detto che Totò Cuffaro è un esempio da seguire e che dobbiamo sciacquarci la bocca quando parliamo di lui. And now the headlines with News Channel 3. E adesso i titoli del TG3. A Firenze il vertice italo-tedesco. Renzi, bene la BCE, ora mettiamo il turbo alle riforme. La sponda della cancelliera Merkel, scelte importanti che porteranno risultati. Ma i falchi della Bundesbank attaccano il piano Draghi. Frenerà le riforme in Italia e Francia. Bilanci a rischio, Visco, nessun pericolo, funzionerà. Attesa per le elezioni di domenica in Grecia, Tsipras sempre più in testa nei sondaggi e avverte: se avremo la maggioranza basta con le politiche di austerità. Guerini, sul Quirinale il patto democratico non si dividerà, consultazioni al via da lunedì con i parlamentari Dem, poi gli incontri con le altre forze politiche. La proposta di Civati e Vendola ai 5 Stelle, portiamo insieme al Colle un antipatto del Nazareno, la replica di Fico, noi aspettiamo una rosa di nomi dal Premier. Basta liti tra PM, dice il Presidente della Cassazione all'apertura dell'anno giudiziario, uffici al collasso, serve una riforma, paese offuscato dalla corruzione. Dopo la scomparsa del sovrano Abdullah, l'Arabia Saudita annuncia l'ascesa al trono del fratellastro, per ora nel segno della continuità. Allora, Marco da Prato, vai Marco! Mi pronto? Dimmi. Salve, buonasera. Ma dopo una settimana di duro lavoro, sì, non sarebbe il caso di parlare con un po' di sesso, un po' di fica e altro? Sì, aspetti, arrivo. Vai, dimmi. Innanzitutto voglio fare una domanda a Parenzo, che è una cosa che viene da tanti anni. Ma si fa ancora un po' di fake, Parenzo? No. Ancora no. Beh, ogni tanto si masturberà sicuramente, interesse per la sessualità degli altri, diciamo. Sono curioso. Ma ogni tanto, perché lei non si masturba ogni tanto, Marco, non ho capito. Io ogni giorno. Lei ogni giorno, beh, io ogni giorno no, però perché ogni giorno? Tempo libero lei, dico. Com'è possibile che lei ogni giorno si masturba? Libero, scusa. Purtroppo è così, o per fortuna, è più trombo e più me le faccio. Non so come mai, però. Ma scusi, lei quanti anni ha? Vabbè, ma questo va bene. Quanti anni ha? Sono 36. 36 anni, lei ha 36 anni, si fa almeno una sega al giorno, giusto? Almeno una, sì. Almeno una. Almeno una. E poi quanto secondo tromba? Lei questo interessa chi ascolta? Ma sei, la radio fammi 24? Raccontare episodi di vita reale, sì, di vita normale, di vita quotidiana. Marco da Prato ci ha chiamato e ha chiesto per esempio se ti fai le seghe, ma e lui ha confessato di farsene una al giorno. Ma lui può confessare quel che vuole, ovviamente. C'è qualcosa di male, no? No, assolutamente, perché c'è qualcosa di male, Parenzo, c'è qualcosa di male? Ma figuriamoci. C'è qualcosa di male, no? Uno coi propri e col proprio corpo fa quel che gli pare. Ma se lui gli piace farsi una sega al giorno, ma no, il tema non è questo, il tema è dirlo alla radio. Però non è, cioè non è tanto quel che uno fa. Fai finta di non essere alla radio. Incontri il signor Marco. Incontri il signor Marco da Prato, incroci. Gli dico fatti tuoi, perché francamente non lo vuoi dire, va bene, ma scusi. No, ma non vedo interessi a nessuno. Scusi Marco, a lei che vantaggio dà una sega al giorno? Perché questo è anche curioso. Allora, la suggerisco prima di andare a letto, meglio del sonnifero. Tra l'altro è uscito un altro dei grandi studi della Zanzara, le grandi inchieste della Zanzara, secondo le quali masturbarsi per 3 volte al giorno fa dimagrire. Ti giuro, è uscito uno studio l'altro giorno. Cioè, per chi vuole dimagrire, uno dei mezzi è quello di masturbarsi 3 volte al giorno. Mi sembra eccessivo. Comunque la masturbazione porta al dimagrimento. Marco, lei lo sapeva questo? Questa no. Lei com'è? Secco? Com'è? Asciutto di fisico? Sì, è abbastanza asciutto. Vedi, però qualche cosa c'è, qualche legame c'è. L'ultimo suggerimento. Sì? Questo ieri si parlava della crisi di sessualità, almeno in Giappone. Sì, la metà. Parenzo che diceva, sì. No, citava uno studio. Suggerisco un modo per rivitalizzare il sesso fra le coppie. Lo suggerisco, poi ognuno fa. Prego, Marco, per carità. Massaggio, della prostata, con un pompino, cioè pompino insieme al massaggio. Meno male che Squinzi credo che si colleghi verso le 20:15, caro Parenzo. Forse dovremmo ribaltare le cose. Cioè, ho capito, però Marco, questo mi pare francamente un po' esagerato. Meno male. Lei lo suggerisce. Lei lo suggerisce. Bene. E con questo diamo la linea alla pubblicità. Buonasera. Senta, lei lo sa dire pene o sa dire solo... Mi chiedo scusa. Tutto gira intorno al sesso, caro Parenzo, tutto gira intorno al sesso, anche la Confindustria. Questa è una grande verità da parte di Antonio Zechila. Il signor Zechila. Cosa vuol dire? Antonio Zechila, che potrebbe candidarsi con Forza Italia in Campania, sarebbe un grande acquisto per la politica, soprattutto dopo che ieri ci ha rivelato alcune cose molto molto scottanti. Le vogliamo risentire in serie? E risentiamo alle 7:40. Bambini, tappatevi le orecchie. Genitori, mettete i tappi alle orecchie dei bambini. Scusami, Parenzo, ma tu tra una conferenza con Draghi e una bella patata, cosa scegli, scusami? Dai. Ma la patata tutta la vita. Ma su, a centimetri siamo oltre i 20 dunque, no? Sì. Beh sì, tranquillo, diciamo, siamo qua, siamo come si freddi. Lo dico in inglese, 23. Nel 94 a me mi hanno offerto, da pure scritto sui giornali, nel 94 mi hanno offerto di fare il porno, mi davano 500 milioni. Io ho rifiutato perché sono un pudico, cosa, ho chiesto 1 miliardo, ho detto dammi 1 miliardo, mettimelo in banca, non me l'ha voluto dare. Nicolino Matera, il produttore di porno. Quindi non ti dico che cazzate. Tu ce l'hai i voti, secondo te? I voti ce l'hai? Ce l'ho, perché io sono il paladino delle mamme, ho tutte le mamme della mia parte. Dopo quella litigata con Pappalardo, sono molto amato. Posso prendere i voti delle mamme, io poi piaccio pure molto ai gay, quindi posso prendere anche i voti dei gay. La patata tira più della Confindustria, te lo posso assicurare. Matteo da Brescia, vai, Matteo. Sì, salve. Dimmi. Volevo parlare in merito alla questione di Corona. Sì, sì. Allora, io anni fa vengo fermato con mezzo cannone di marijuana, mezzo spinello di marijuana con certi Bob Dylan. Sì. Mi mandano al SER del mio paese in mezzo ai tossicodipendenti, mi ritirano la patente, e sono fottuto, sputtanato in tutto il paese. Un mio collega... Beh, in tutto il paese, il suo paese, diciamo, no? In tutta l'Italia. Sì, certo, in tutto il mio paese, ok? Sì, ma è una vergogna questa cosa qua. Quanto aveva lei in mano? Mezzo cannone di marijuana. Mezzo cannone, che vuol dire un cannone di marijuana? Mi spieghi bene. Quanti grammi? Uno spinello. Sì. Mm. Sì, 0,5 grammi. E allora? Qualcosa del genere. E allora, adesso la gente vuole chiedere Renzi Corona, dopo tutte le puttanate che ha fatto. Vabbè, questo che c'entra, però, scusi, adesso il paragone non mi sembra corretto. Cioè, io a me dispiace quello che è successo a lei, ed è una vergogna che uno che fuma una canna debba andare non so dove, al CERT. In mezzo di tossicodipendenza, perché ci stanno prendendo il metadone. Però non è quello il punto, è il concetto. Qual è il concetto? Il concetto che io, se sono uno sfigato che non conosce un cazzo di nessuno, per una puttanata passo nella merda così. Questi qua fanno tutte le peggiori stronzate e ci sono anche comitati che chiedono che venga rilasciato dal carcere. È questa l'assurdità, è questo che non riesco a capire. Quindi che non rompa le palle, che vada a fare in culo, ha fatto le puttanate e paga, punto. Come facciamo tutti noi italiani? Beh, quasi tutti noi italiani. Perché ma se infatti, passa un concetto, se passa un ma infatti concetto, nessuno dice un'altra cosa. No, ma semplicemente io, misure io sono alternative alla pena restrittiva. No, Matteo è incazzato per un'altra cosa. Matteo è incazzato perché ci sono italiani che si mobilitano, ci sono VIP che si mobilitano per degli altri VIP, mentre dei poveri cristi non se ne occupa nessuno. Ma non è vero, vale per tutti. La battaglia per Corona è valida per tutti quelli che sono nella condizione di Corona, cioè che potrebbero scontare una pena. Non per tutti c'è il clamore, non per tutti c'è questo clamore. Grazie al clamore su Corona ci può essere un aiuto per tutti gli altri detenuti. Ma quando mai? Ma dove? Ma caro Parenzo, ma di che cosa? Di che parli, dai? Beh, caro, si parla di carcere, purtroppo si parla di carcere solo quando ci sono dei detenuti eccellenti, no? Non mi pare che anche noi purtroppo parliamo di carcere. Ma no, ma io infatti non ne parlo perché questa perché non è te ne fotti? Perché certo, non è una trasmissione che parla di queste cose, ma non no, dire cazzate, d'accordo, dai, è ovvio, ma nessuno parla di purtroppo, nessuno parla di carcere. Vabbè, abitualmente. Ma ho capito, c'è ma non il è caso eccellente, se ne parla e questo può aiutare altri. Senti, a me pare strano che ci sia tutta questa mobilitazione adesso. Esatto, bravissimo, è quella roba lì, cioè pazzesco. Parenzo, ho capito che deve avere una ridondanza, ok? Tu dici, vabbè, cazzo, c'è il VIP che ha la ridondanza e quindi può essere, ma quando mai succede una roba del genere? Quando mai? Fa la notizia quanto? Mezz'ora? Mezza giornata? Una settimana? Un mese? Fuori dei coglioni? Dopo due settimane siamo gli italiani e nessuno ricorda più un cazzo di nessuno che ridondanza ha avuto. Va bene, grazie. Io... Vai, okay, grazie. Va Massimiliano, bene. Trento, Massimiliano, vai. Buonasera Cucciani, buonasera Parenzo. Dimmi, vai. Volevo toccare un tema che le sta particolarmente a cuore, che è la sessualità, e un altro tema tragicamente attuale, che è quello dell'Islam. Allora, io lavoro come export manager da qualche anno nel settore farmaceutico e ho girato il Medio Oriente lungo il Vabbè, allora? Lo sai qual è il prodotto farmaceutico più venduto in Arabia Saudita? Quale? Lubrificante per rapporti sessuali. E in Arabia Saudita? In Arabia Saudita, sa qual è a che tipo di rapporti serviva il lubrificante? Posso immaginare? Rapporti anali, e vi spiego perché. Perché? Perché se si immagina la società. No, io riporto la mia esperienza, non è la verità. Allora la mia esperienza. Se si immagina una società musulmana dove la donna è sotto il controllo strettissimo della famiglia, i ragazzi che crescono in età adolescente non hanno modo di scoprire la sessualità come la facciamo noi, devono scoprirla tra di loro. E quindi dilaga un fenomeno di omosessualità, che non è omosessualità come la intendiamo noi, cioè è un'omosessualità forzata, e allora? Un'omosessualità di diritto. Mi ricollego a un commento che ho fatto la settimana scorsa riguardo la repressione che c'è nelle città musulmane, che poi li porta a questi... Vabbè, però adesso non siamo qui a parlare di sociologia, che cosa ci vuoi raccontare, Massimiliano? Niente, vi volevo parlare di questo, volevo parlare del fatto che nei paesi musulmani c'è un'omosessualità forzata di fatto, che è una necessità di questi ragazzi. Vabbè, insomma. Ciao Massimiliano, ciao. Pronto? Professore? Pronto? Chi è? Cruciani, ciao. Professore. Buonasera, come andiamo, bene, prof? Bene un cazzo, direi. Meglio non potrebbe andare, meglio non ma come no? Condanna in appello. Questa è la vita del nostro paese ormai. Ma chi ti ha difeso, ridotto? Come? Ridotto no, come? Chi ti ha difeso nel processo, avvocato? Ma tu certamente non mi hai difeso. Quello, hai fatto di tutto per... Ma io venissi condannato. E come no, assolutamente. Fatto di tutto no, perché non parlo coi giudici, diciamo. Io comunque aspetto. Non ne sarei così sicuro poi comunque. Ma io ti assicuro che non parlo. Ma come? Comunque, ma che cazzo stai dicendo? La questione. Ma chi io parlo con i giudici, secondo voi? Ma non lo so. Ma che ne so? Che fate fra di voi? Vabbè, comunque, che cos'è sto giudizio? Una vergogna? Che cos'è sta sentenza d'appello? Una sentenza veramente inaccettabile, tra l'altro. dice chiaramente che siccome io sono un uomo pubblico, questa sì. è una ragione in più perché io sia, debba essere condannato, per cui insomma per la emblematicità della mia delle mie affermazioni che si accresce per effetto della mia Ma chi c'è dietro? Pubblica. Che è successo? Ha agito qualche lobby? Che è successo? Ma lobby, questi sono tutti d'accordo tra di loro. Chi? Cioè chi? Se chi la cantano e se la suonano. Ma chi? Gay, dice. Ma questi signori che hanno determinato la pronuncia di una sentenza che non sta nel cielo. I magistrati, i giudici. No, ho capito, ma i magistrati sono d'accordo con le associazioni gay, stai dicendo? Non è che sono d'accordo con le associazioni gay, non lo posso sapere, a meno che non vogliate che mi faccia un altro processo. No, così voi riuscite a fare le trasmissioni, perché poi la responsabilità principale di questa storia è proprio la vostra. Ma che responsabilità adesso? Mi avete provocato e io sono caduto nella provocazione. Comunque, ma lei ha detto quello che pensava, avvocato. Dai, no, su. Io continuo a dire sempre quello che penso, però siccome sono un uomo di legge, è chiaro che di fronte ad una doppia pronuncia del. Ma avvocato, lei ha detto che non assumerebbe i gay e non ha fatto. Non assumerebbe i gay nel suo studio, giusto? Esatto, ma pare che non si possa dire, capito? Ma allora, vogliamo fare una cosa: se si presenta un frocio, presenta un frocio a lei, gli dice io sono frocio. Non rispondo, non risponde allora. No, non le rispondo. Non le rispondo perché siccome, come ho detto prima, sono una persona che appartiene al mondo del diritto, so che le sentenze devono essere prese in considerazione, non le condivido sia quella di primo grado che di secondo grado, andrò in corte di Cassazione, vediamo se non combatte più, ha finito di combattere, il consiglio che do al professore, ha finito di combattere il professore, secondo me la pena guarda sì. Dia pochi, perché ogni volta che dà un consiglio è una tragedia. È una tragedia. Guarda, la pena è ingiusta perché fargli pagare 10.000 euro non ha alcun senso. Ma guardi, li pagate voi, perché io adesso li chiamo in giudizio. Com'è? Ma che chiama in giudizio? Non pago il corno perché non ho niente. Ma che non avendo... E che chiama in giudizio perché cosa? Perché ci chiama in giudizio? Perché voi siete come un giornale. Ma che c'entra? Ma va, ma quando? Io non ho una lira. Ma noi non abbiamo una lira, ne ho una lira. È lei che è ricco, mica noi. È lei che è ricco, mica noi. Ma una cosa è essere ricchi, un'altra cosa è pagare le cose ingiuste. Ma le cose ingiuste io non le pago. Io sono d'accordo che è ingiusto, ma non è che dobbiamo pagare noi, però. Voi ci avete fatto la trasmissione. Ma che c'entra? Ma l'ha detta lei quelle cose, mica l'ho dette io quelle cose. L'ho dette io e naturalmente me ne assumo la responsabilità. Ma scusi, è lei che pensa che i gay sono malati, mica lo penso io, professore. Contro natura, l'ha detto di tutti i colori, l'ha detta, dai, su. Non ci casco. L'ha già cascato mille volte. Lei giustamente. Non ci casco più. Ma lei giustamente diceva quello che. Ho capito, mica sono. Scusi, professore. Di fronte a due sentenze della magistratura. Io che faccio? Combatto, continuo a combattere. Lei diceva quello che pensava, quello che pensava, questo è il punto. E adesso se la fa sotto. Ma pare che dicono. No, non me la faccio. Come no? Se la fa sotto adesso. Ci sono due sentenze con le quali. E allora che c'entra? Perché si dicono che è una. E uno combatte, no? Uno combatte. Certo, continuo a combattere con gli strumenti che la legge mi consente, cioè farò un ricorso per Cassazione. Ma lei dovrebbe ripetere le cose che ha detto e esserne fiero anche. No, ripetere le cose che ho detto, no. Perché andrei incontro da cretino ad un altro procedimento penale. Ma figuriamoci. È un procedimento civile, non un procedimento penale. Però andrei incontro ad un altro procedimento. E per quale ragione devo ogni volta mettermi lì a pagare 10.000 euro alle lobby? No, ma infatti, guarda. Che interessa a questi signori? È sbagliata la condanna. Dovevano mandarti ai servizi sociali. Voi che siete dei giornalisti, dovreste essere i più gelosi della libertà di manifestazione. Ma io sono dalla tua parte, ma se questo imbecille di Parenzo mi viene a dire un momento, sono per la libertà di parola, ma non per la libertà di offesa, che è una roba diversa. Cruciani pensa che offendere non costituisca reato. Io penso che offendere ti meriti un procedimento. Questo sì. Ma tu devi andare ai servizi sociali, io ti dico questo. Tu dovresti, anziché farti pagare 10.000 euro, tu dovevi andare per due mesi all'Arcigay a fare il gratuito patrocinio all'Arcigay. Questo dovevi fare. Altro che tu dovevi andare ad assistere legalmente l'Arcigay. Questa sarebbe stata la pena più bella, perché la legge del contrappasso dantesca li insulti, anziché condannarti a pagare, ma sarebbe stato più doloroso per te che ti avessero obbligato a lavorare all'Arcigay per 2 mesi come legale gratuitamente. Questo sarebbe stato. Ha ragione il professore, ha ragione. Ha ragione il professore. Ma che vuole che lo vuoi mettere in galera? Lo vuoi mettere? Ma non hai capito un cazzo neanche tu. Ho detto esattamente il contrario. I servizi sociali presso l'Arcigay, ma sei pazzo. Sarebbe stato intelligente, anziché fargli pagare 10.000 euro, mandarlo per 2 mesi a fare gratuitamente assistenza legale all'Arcigay. Sarebbe stato più utile che fargli sborsare 10.000 euro. Questo ho detto. No, invece sono molto intelligente. Guarda un po'. Preferisco pagare perché sei fallo parlare, perché andare a fare un piacere a chi non mi va di favorire. Questo mai, capito, bello mio? Favorire. Perché se tu, e invece andavi a farti i servizi sociali all'Arcigay. Tu, patrocinio, o il giornalista, o il portavoce dell'Arcigay. Beh, tu, a me non mi condannano per reati omofobi, quindi. Certo, ma io come non quello della Lega. Quello della Lega che ha dato della scimmia alla Chienge, oltre a dargli soldi, dovrebbe lavorare per un'associazione di immigrati, così vedrai che gli cambia la testa. E tu dovresti lavorare gratis per 2 mesi a un'associazione di omosessuali. Vedrai che ti cambia la testa, anziché dargli 10.000 euro. E chi ti sta presto? Vedrai che ti cambia la testa, avvocato. Ma dai, ma chi c'è tra Chienge? Anziché farti, vedi che ti fa più male? Anziché pagare 10.000 euro ai servizi sociali per 2 mesi all'Arcigay, a fare l'avvocato, a fare l'avvocato gratis per l'Arcigay. Questo è, questo è la legge del contrappasso. Questa è, capito? A chi non voglio servire, ma chi non voglio servire? Infatti, vedi che i giudici sono stati troppo buoni allora. E i giudici sono stati troppo buoni allora. La prossima volta pagherò il doppio. No, ma non è pagare, vedi che fanno male? Parenzo, sei vergognoso, Ma per carità, guarda. Ecco, sei vergognoso. Il corso rosso che arriva. Ma sei veramente vergognoso. Ecco l'altro che arriva. Ecco l'altro. Ecco l'altro. No, la libertà di pensiero è abolita. La libertà di insulto che arriva. L'avvocato della libertà di insulto. Ecco un altro. Ha espresso la sua. La libertà di insulto la stai in questo momento esercitando tutt'altro, nel modo in cui ti stai rivolgendo a me. Tutt'altro, io a te, caro Carlo, ti sto dicendo. Io ho detto che ci sono due sentenze, che sono due sentenze che dicono esattamente la stessa cosa, una in un modo più peggiore dell'altro dal punto di vista delle argomentazioni, ma sono due sentenze. E ho detto che siccome sono due sentenze, io le devo rispettare. Benissimo. Le combatto perché le combatterò, e tu mi stai dicendo che dovrai. No, io ti ho detto un'altra cosa, ti ho detto che la pena più corretta sarebbe, ma non hai capito, la pena anziché farti pagare, questo hai detto. Ma state calmi entrambi, perché vi mando a fare il culo 5 minuti. Ho detto che la pena vera sarebbe stata quella, anziché farti pagare fai 2 mesi gratis all'Arcigay. Pena migliore non c'è. Ma non è gay, ma non è gay, ma non mi interessa. Ma è la tua iracondia dimostra semplicemente che la pena migliore sarebbe stata 2 mesi gratis all'Arcigay. 2 mesi gratis all'Arcigay. 2 mesi gratis all'Arcigay. Io non sono stato condannato. Io non sono stato condannato. Io non sono stato condannato. Io non sono stato condannato. Perché tu vai a fare? Anziché farti pagare una multa, la pena migliore sarebbe stata quella di farti passare 2 mesi con loro e lavoravi gratuitamente per 2 mesi. Magari, così magari gli toccano pure il culo. Così magari gli toccano pure il culo. Ma che stupidaggine dici? Tra un illecito civile e un illecito penale. A me è stata data la discriminazione come illecito civile, quindi non ci possono essere le pene, le sanzioni, come dici tu. Si tratta. Vabbè, quella è una cosa tecnica, applicare. Dai. No, che tecnica? Ho soldi o niente. Non Parenzo dice questo. Sarebbe stata una pena più efficace nei tuoi confronti, per quello che hai detto. Andiamo avanti. Ma guarda che siete veramente strani. Ma è Parenzo che lo dice, mica io. State chiedendo la depenalizzazione della diffamazione e poi per queste cose metteresti pure la forza. Fatemi capire. No, Parenzo vuole che tu vai. Anziché i soldi, i servizi è più utile fare un lavoro socialmente utile, no? non sono io che pagherò, non sono io che guarda, pagherò. Non c'ho manco una casa in testa, guarda, si tratta soltanto di una coscienza civile, sì, che è stata intaccata dal punto di, perché una cosa era che uno avesse effettuato la discriminazione, certo, ma questa ragione, hai ragione, che uno esprime l'opinione di quello che ritiene in generale, ma questa hai ragione, io hai ragione allora, al 100%. È Parenzo che dice che tu invece di pagare dovresti andare a fare, certo, praticamente lo schiavo dell'arcigay, no, questo lo schiavo dice, lo dici tu, lo schiavo lo facesse lui, che lo schiavo lo dite voi, io dite che piacere, Parenzo, lo schiavo lo dite voi. Se no, lo schiavo non l'ho mai detto. Che? Sì, vai a fare. Quello è. Parenzo ha detto: lo schiavo volontariato all'arcigay. Per due mesi fa assistenza legale non gratis, pagata. Certo, assistenza. Ma tu sei pazzo. Ma quanto varrà? Un'ora. Vabbè, un'ora. Concezione fai due penale, mesi, due cose. Mesi, due ma mesi lì gratis. Vergogna, di vergogna. Due mesi gratis. Ti mette la galera per la diffamazione, allora a questo punto. Ma quale galera? Vergognati, Davide, vergognati, vergognati. Sono assolutamente contrario. Devi vergognarti, devi vergognarti di persone come te. Bisognerebbe veramente rimetterla. Sì, una vergogna. Guarda, una cosa incredibile, Parenzo, ma non capisco perché con... il professore deve andare a fare volontariato all'arcigay, ma lo spieghi a te, perché ancora, secondo te sarebbe stata due, la pena entrambi migliore, perché sarebbe stata la pena migliore? Una pena che Dante avrebbe definito del contrappasso, cioè vabbè, anziché fargli fargli pagare, vedi che lui una visione moderna, lui con 10.000 euro, cioè lui con 10.000 euro paga, fa una sanzione amministrativa. Ma scusa, ma te lo immagini il professore che entra, fai spiegare che entra all'arcigay, mi fai dire, ti dico cosa immagina la scena, il professore entra all'arcigay, toc toc, bussa, se mi fai parlare ti dico come lo immagino. Ci mandiamo Parenzo, ci mandiamo, che è casa tua. Io sono andato a fare casa mia, no, ma no. Ma che vuol dire casa mia? Io sono andato a tanti convegni invitato da loro. Dove ha la possibilità di esplicare la sua personalità in tutte le sta aggravando la situazione, avvocato, secondo me. Sta aggravando la situazione. Allora immagina la situazione. Il professore bussa, che la situazione è molto semplice. Mi pare che siccome la lingua batte dove il dente eccetera, allora mi pare che i 10.000 euro per lui siano leggeri. Mi pare, è un modo di dire, no? La lingua batte dove il dente duole. No, non c'era nessuno, solo tu equivochi. Vabbè. Beh, la cosa più bella, dopo la pubblicità te lo dico. Dopo la pubblicità. Problemi loro, sono froci, problemi loro. E allora condannate pure Cassano, no? Perché non hanno condannato anche Cassano? Avete sentito che ha detto? In una conferenza stampa ufficiale della Nazionale di Calcio tempo fa disse questa roba qui, disse sono froci, problemi loro. Perché nessuno ha condannato Cassano? Perché è Cassano, perché magari fa... Invece l'avvocato Taormina, che dice la sua, che è spontaneo eccetera eccetera, che devono fare? Stritolarlo? Che devono fare? Dai, su. Parenzo, io posso anche essere d'accordo, tutti condannati allora. No, tutti condannati. Allora tutti condannati, perché Cassano no? State calmi. State calmi. La diffamazione, come sa l'avvocato, è una cosa. Insultare uno per strada e dirgli. Vabbè. Ma che gli ha detto? Scusa, che ha detto? Allora, il ragionamento che ha fatto Taormina è stato giudicato dai giudici offensivo e discriminatorio. Bene. Io dico che anziché fargli pagare 10.000 euro, doveva andare a lavorare non due, ma tre mesi a questo punto. Per il valore di 10.000 euro gratuitamente all'arcigay per tre mesi, non si sarebbe rovinato il suo budget di grande avvocato. Tre mesi gratis all'arcigay, gratis. Che sta facendo lei? Parte dal presupposto di aver incontrato una persona per strada ed averla accusata, esatto, di essere, esatto, di essere gay. Cosa che non è... In questo sono d'accordo pienamente con lei. Non so chi è l'ascoltatore, ma sono d'accordo. Io non ho fatto solo io, questo Parenzo. Perché io mi sono... è Parenzo, mi pare una volta tanto che riesce a dire una cosa seria. Mi sembrava non solo, ma ti sei contraddetto, tutt'altro. Perché tu hai dato concretezza ad un comportamento. Vabbè. E allora è perfettamente giustificato. Ma questa è una cosa, quella che ho fatto io con voi è stata un'altra cosa. Abbiamo parlato di questo problema e io ho espresso la mia opinione. Esatto. Però poi tu non sai se in concreto mi sarei comportato in un modo piuttosto che in un altro. No, non c'è stato un caso, non c'è stato un caso in cui cosa vuol dire? Aspetta, Paolo da Udine, aspetta, professore Paolo. Oh mamma, questo è matto. Sì, questo è matto. Buonasera Cruciani. Dimmi Paolo, buonasera dimmi. A tutti. Dai, veloce però, ogni volta. Sì, va bene. Dai. Cioè, mi darà atto che io non ho telefonato dall'ultima volta, quindi non potete sì, dire che sì, però ogni volta che ci rompi le balle, che c'è sta voce noiosa. Senti Parenzo, allora oggi tu rompi sempre, però stavolta hai ragione. Dai, perché c'ha ragione Parenzo, no, ma io mi costringete a telefonare, io non volevo telefonare, non mi interessava. Che è successo? Che è successo? Ma come è successo? Che avete chiamato di nuovo Taormina, adesso è ora di finirla. Adesso ma è successo un fatto di cronaca. Ma ne frega niente dei fatti di cronaca, altro che 10.000 euro, avvocato Taormina, altro che 10.000 euro. Lavori, lavori forzati, lavori forzati, ci vada lei a fare i lavori forzati. No, ci va lei perché le cose che ha detto sono altamente discriminatorie. Se le portano qualche cosa le va pure bene. È una farsa questa, bene, quindi 10.000 euro non se ne fa niente. Se ne vada a lavorare, ma pesante, pesante, su una bella isola deserta. Che io lavoro pesante, non si preoccupi, non ho bisogno che altri mi diano da fare lavori pesanti. No, io mi preoccupo perché sempre in questa trasmissione. Io mi preoccupo di lei, guarda. Sì, io mi... bravo, bravo. Io mi preoccupo di lei, che veramente deve avere qualche ossessione che la persegue. Sì, ma no, è lei che c'ha l'ossessione. Soltanto questo può spiegare questa sua... E lei c'ha l'ossessione perché viene sempre in questa trasmissione. Questo suo atteggiamento nei miei confronti. Dovrebbe avere il buon senso di dire a Cruciani no, basta, no, cosa da dire, niente. No, e no, niente. Io questa soddisfazione non gliela do invece. Io invece se intendo affrontare determinati problemi. Certo, certo. Mi augurerei di poter di affrontare con serenità e con tranquillità, ecco, purtroppo il temperamento delle persone non è sempre controllabile, lei capisce, lei capisce che per una persona che appartiene ad un sistema giudiziario nel quale opera tutti i giorni, avere a che fare con sentenze di questo genere, nelle quali non pago io perché a me non me ne frega niente di pagare o non pagare, ma paga l'evoluzione della nostra città, ma si rende conto che abbiamo una Costituzione la quale dice determinate cose e poi dicono altre cose. Vabbè. Oggi lo fanno posso per dire una cosa? Aspetta, ma non dire niente. Professore, un attimo, Paolo, dimmi. Paolo, dimmi, che c'è? All'avvocato Taormina dovrebbero costringerlo ad avere un rapporto gay. Va bene? Vabbè, sì, sì, sì, sì. Ma l'ha ammazzato, lui sa dire solo quello? Ma che? Ma si faccia costringere lei, forse la costringerà. Ma lei che c'è questo problema? Io non so basta, Paolo, basta, Paolo, basta, Paolo, basta, vattene, via, mori, fuori Paolo. Vabbè. Professore, arrivederci, buona serata, passi una buona serata. Arrivederci. Che c'è da mandare in onda? Arezzo? Ehi. Che battaglia che hai fatto, mamma mia, che battaglia. Ma no, mi pare che hai detto delle cose di buon senso però. Beh, insomma, sì, ti avrei attaccato. Tu ti divertivi a buttargli la benzina e a provare a mettermi al muro. L'hai no? attaccato. Ha ragione l'avvocato, ha ragione l'avvocato. Allora, Dario Argento è sfuggito un sacco di gente. Quello che ha detto il signor Dario Argento. Dalla Bignardi, certo. Sì, l'ho visto, certamente. Per 40 anni ho fumato canne ogni giorno. Strano che Giovanardi, l'amico Carlo Giovanardi, non si sia fatto sentire su questa trasmissione. Magari ancora non ha percepito, non gli è arrivata all'orecchio, signor Giovanardi. Dario Argento. Per 30 anni o 40, ogni giorno ti sei fatto una canna. Sì. Beh, non è una cosa che tutti raccontano. Sì. Cioè, dai 30 ai 70 anni, sì, tu ogni giorno ti facevi una o più canne. Una o più canne. Ma quando cominciavi? Al mattino? No, no, non al mattino. Cominciavo a seconda di come mi sentivo, quello che mi portava il cuore. Mi portava di farmi una bella canna, me la facevo. Non è che mi facesse tanto effetto, perché dopo un po' di tempo non è che sei stravolto, fai una canna e sei morto come succede a delle persone, no, no, è normale, facevo una canna, era come farsi una sigaretta, non mi facevo le sigarette perché ho smesso di fumare molti anni fa. E che effetto ti faceva? Mi rendeva più rilassato nei rapporti con gli altri. Niente, però nessun altro effetto. Sempre non è che è creativa la canna, non è come diceva appunto pure Hemingway, diceva non è che l'alcol è creativo, che se bevo io sono più bravo, no, l'alcol è un'altra cosa, è così la canna è un'altra cosa, non è creativa, non è che ti fa diventare più bravo, più intelligente. Come mai hai smesso? Perché mi era venuta un po' di asma e allora mi veniva la tosse e non potevo più fumare, peccato, è stato un dolore incredibile, ti giuro. E poi la cocaina. Ma hai avuto anche dei problemi di disintossicazione? No, niente. Come ad esempio quando ho preso anche la cocaina, devo dire. Adesso, però anche quello non ho avuto problemi di disintossicazione, l'ho presa per un periodo, poi un periodo lungo quanto? No, l'ho presa per un anno e poi non l'ho presa più, poi l'ho presa per un altro anno e poi non l'ho presa più. Ma quella perché la prendevi? Quella perché frequentavo un gruppo tra cui c'era Fassbinder, eccetera, dove prendevano tutti la cocaina. E allora a un certo punto mi hanno chiesto prendila, e l'ho presa senza moralismi, senza paure. E così, vedevo che mi dava una certa energia. E così l'ho presa per un periodo. Piero da Roma, Piero. Sì, ciao Cruciani. Dimmi Piero. Io volevo chiamare, volevo esprimere un attimo un giudizio, prima di tutto su Corona che hai nominato prima e poi mi riallaccio anche a Taormina. E mi rincresce dirti che anch'io sono leggermente in accordo con quello che diceva Parenzo prima. Prima di tutto perché le sentenze che vengono espresse dai giudici devono essere tese a una riflessione. Ma su che cosa, scusa? Su che cosa? Sulla funzione dei giudici, prima di tutto su Corona e il fatto che non ci deve essere assolutamente nessun tipo di grazia perché è una persona che... Questo lo decido io, per esempio, non sono né contrario alla grazia, né contrario ai servizi sociali, né contrario ai domiciliari, ma non siamo noi a deciderlo, non è un diritto divino, cioè questo è il punto, non siamo noi a decidere, ci sono dei ricorsi che vengono fatti, delle richieste che vengono fatte secondo le norme di legge e punto e basta. Sì, spesso i periti però non valutano la salute di salute reale della persona. È successo di gente che è morta in carcere. È successo. In carcere si muore. Si muore in carcere. È una condizione complicata. Nello carcere, stato certo. di diritto e non dovrebbe essere è così. È una condizione complicata. Non carcere. Dovrebbe essere così, invece. Va bene, francamente. D'accordo. È morto in carcere. Chi se ne frega? Non ho detto chi se ne frega. Traffico, via. Non ho detto chi se ne frega. Non hai capito. Ma tu sei proprio. Tutto uguale. Permeato. Cioè, appena parla Manconi, tu ti metti giù e ti baci i piedi. Ma non è l'unico, per fortuna. Non è l'unico. Ci sono in tanti che si occupano di. Ma io carcere, non ho detto niente, poi tra l'altro tantissimi sono. Piero, vai, prosegui. Sono dai. Morti in carcere, no, dico, ci sono, certo. Quello che ha fatto Corona è stato altamente degradante anche per l'immagine del paese. Io vivevo all'epoca all'estero. L'immagine del paese, non esageriamo. Al limite per se stesso, no, proprio al limite. È totalmente diseducativo. No, ma non c'entra niente. Che poi all'epoca io attaccavo Corona e tu lo difendevi. Certo perché lo all'epoca tu difendevi il malaffare di Corona. Io il malaffare, non ho mai difeso il malaffare. Assolutamente, cioè difendevi il metodo della certo. vendita delle no. foto. No. In modo ipocrita. Rimandate i nastri di quello che dicevi. Senti. Io invece accusavo Corona e ora Senti. Però lo voglio fuori, guarda Senti, la differenza. Amico mio, io non difendevo. Rimanda i nastri quello che dicevi. Ma stai zitto, invece di dire cazzate. Rimanda i nastri di quello che dicevi. Di Corona, basta. Rimanda i nastri. Vabbè, se hai coraggio, rimanda vabbè. I nastri, rimanda ma i nastri certo di quello che dicevi di Corona, certo. Rimanda i nastri senza tagliuzzarli. Ma. Così si vedrà che io attaccavo Corona per quello e che allora? Faceva e adesso lo vorrei essere servizi nulla. Sociali o fuori ma non dal sapevi carcere. Nulla, non sapevi. Sapevo perfettamente ma non che vinducchiava le foto per ricattacchiare qualcuno ma e tu dicevi, ma no, è gossip. Ma dov'è il problema? Mai. È gossip. Ma che problema è? Se uno rimanda i nastri, rimanda i nastri, rimanda i nastri, ma certo. Rimanda i nastri, rimandali e vediamo chi ha ragione. Scommetto 50.000 euro. Ma 50.000 euro scommetto. Ma figurati. 50.000 euro. Senti. 50.000 scommetto. Sì, appena finito tu di urlare me lo dice. Fuori dal carcere lo difendevi. Appena, fuori dal carcere lo difendevi. Finito di io urlare, ora lo voglio bravo, fuori invece. Abbiamo capito. Capito abbiamo la capito. Differenza. Allora adesso appena finito sì. di urlare ti dico una cosa molto semplice. Rimanda i nastri. Sì, ma stai tranquillo adesso. Rimanda i nastri. Prendi una camomilla e stai tranquillo. Perché si vedrà chi lo difendeva quando era fuori dal carcere e faceva zozzerie. Certo. Io ero ero contro quelle zozzerie, certo, perché qua non ritenevo, gossip quella bella roba. Ambulanzina, non la ritenevo gossip, ma io oggi lo voglio fuori dal carcere. Ambulanzina. Guarda un po'. Ecco l'ambulanzina. Guarda un po'. Rimanda quello che dicevi quando era fuori, che faceva i suoi ricatti. Rimanda quegli audio, così abbiamo capito. Stai zitto adesso, stai zitto, abbiamo capito. Allora, la cosa fondamentale è una sola: io non ho mai difeso il ricatto. Come ho mai difeso i ricatti. Che non era ricatto. Stai zitto, non ho mai difeso i ricatti. Ma stai zitto, io invece di ragazzi. Vabbè, mandi la pubblicità, dicevi così mi rotti i coglioni questo qua. Dai. Che non era ma stai zitto, va. Ma stai zitto, ma quando mai? Ma stai zitto. Manda la pubblicità, vai, questo imbecille, dai. Allora, ed è tutto evidente, anche andando a ripescare questi famosi nastri di cui parla il matto, ecco, qui che ha parlato prima. Rimanda i nastri. Sì, sì, stai tranquillo. Rimandali. Che cos'è che sento un rimbombo? Toglietemi un attimo il rimbombo. Allora, rimandali. È del tutto evidente. Che difendevi Corona? Sì, no, che non difendevo Corona, difendevi, ma spesso la pratica. Oh, ma ti stai Corona zitto un attimo, no? Mi fai parlare, no? Mi fai parlare perché questa trasmissione fino a prova contraria la conduco io. Per cui sì, adesso stai zitto un attimo. Stai zitto una. L'hai già fatta la tua contraddizione. Stai uso zitto un attimo tecnica e mi lasci parlare. Primo, uso la stessa primo tecnica. Mi lasci, poi puoi dire quello che vuoi. Allora, prima cosa, non ho mai difeso Corona. Audio ce ne sa più di uno, se vuoi. Ce n'è più di uno. Più volte è venuto Corona qui a parlare, 2 o 3 volte. No, ma anche quando no, c'era, ma non ti preoccupare, non ti preoccupare, ma non ti ricordo il caso perfetto. Ma non ricordi un cazzo tu, non ricordi un cazzo. Allora, la cosa fondamentale è che io lo lasciavo parlare per farmi dire un po' di minchiate come facevo sempre. Spesso no, io do corda, stai zitto, do corda alle persone, come no? Do corda alle persone, non mi sto scaldando. Do corda alle persone, do corda alle persone. Sai che è un altro. Per tirar fuori delle cose. No, non c'è nessun punto perché del caso Corona non mi sono mai occupato. Ma non dire stronzate, non dire usci fuori quella cosa su Trezeghe, non sostenevi andremo a ripescare, sì, che non esisteva il concetto del ricatto. Senti, non discutevo una sentenza, capito? Dicevi che era non c'era sentenza perché c'era un processo in corso. C'era il processo in corso e tu ma nel comunque corso non discuto nemmeno adesso, ma io non sto dicendo dicevi, che c'era ricatto. Ma come, tu lo vuoi in galera? Io, ma non mentre, ma chi lo dice, stronzo, tu, non è questo. Tu lo vuoi in galera? Ma vai a fare in culo, perché va? Ti arrabbi? Ero da Roma, va. Perché ma quale galera? Io non voglio nessuno in galera, imbecille. Tu lo vuoi in galera? Ma sei un poveraccio, sei la gente che ha ascoltato l'ha capito. Tu lo vuoi, non hai capito niente. Io penso che possa scontare fuori la sua pena ai domiciliari o quant'altro. Questo penso Andrea io, da Bologna, non questo voglio nessuno in galera. Mentre poveraccio, tu all'epoca Andrea sostenevi, parla Andrea, come parla, parla Andrea, toglietela, parla Andrea. Vai. Ciao Cruciani, ciao, che noia sta poveraccio, cosa, guarda Parenzo, mamma mia, vabbè, comunque ma allora, io voglio in galera, dice che voglio in galera le persone, questo cretino. Ma stai zitto, non voglio in galera Corona, imbecille. Andrea da Bologna. Sì, allora, senti un po', io ho chiamato tempo dico fa. Dico che deve fare la strada che fanno tutti, capito? Senza privilegi, punto e basta. Non lo voglio in galera, sì, imbecille. Carcere, hai detto che bisogna costruire più carceri. Costruire più carceri, certo. E allora? Questa è una necessità evidente. No, che è una contraddizione. Ci sono poche carceri in Italia, ci sono pochi posti. Ma cosa c'entra? Cosa c'entra col fatto che c'è alcuni reati? Ma questo è un tema reati generale che non che riguarda Corona. Si non voglio scontare fuori. Vabbè, vuol dire Andrea questo da Bologna, io ho detto. Vai. Andrea da Bologna. Questo ho detto. Non che i reati si di Corona. Non i reati di Corona. A casa non 9 anni. Non 9 anni o 13 anni. Questo io poi non voglio più parlare di questa roba, capito? Non voglio più parlare di questa roba qua. Perché non voglio in galera nessuno. Chiaro? Come nessuno. Al contrario. Non voglio in galera nessuno di principio. Di principio non voglio in galera di nessuno. Voglio che la gente sconti la sua pena. I pedofili li voglio in galera, gli stupratori li voglio in galera invece fare, io. Tanto è un pazzo, Andrea da Bologna. Io un pazzo, io metto in luce le contraddizioni. Sì, ma quale contraddizione? Non c'è nessuna contraddizione. No, nessuna, coerenza assoluta. Ma chi ha detto capirà che c'è coerenza? Ma che c'entra la coerenza? Non c'entra niente. Come tu no confondi la tecnica per fare un'intervista in una trasmissione radiofonica ad altre cose. Io confondo, no, quello la conosco. Andrea, confondo vai il tuo pensiero, Andrea, sul caso. Per cui sostenevi va bene. Va bene, vai. Ah, l'avete sfumato, vabbè. Senti, allora, io ho chiamato un tempo fa, poi avete preso un po' una specie di jingle che ti dicevo non c'è più figa in trasmissione. Però adesso ho richiamato perché anche ultimamente ne sei poca. Allora io mi sento di fare un appello a nome degli ascoltatori etero, mi senti? Della zanzara. Sì. Cruciani, noi vogliamo più figa. Cioè, ma quella so che non è più il periodo di certine, di quelle cose lì, però trova qualcosa, trova uno spunto. Cioè, io non sono come quell'ascoltatore che vorrebbe avere abbi pazienza, ma parliamo di queste robe qui tutti i giorni. Parliamo tutti i giorni di questa roba qua. Ma cosa vuoi di più? Intervisti, Ho capito, ma la settimana scorsa è venuta, amico mio. Ma che vuoi? Ogni giorno qualcuno è in trasmissione? Chi vuoi? No, per me una alla settimana che ce la faccia, non dico averlo duro, però averlo il bello per noi ascoltatori della Zanzara sarebbe, non dico averlo duro il casello D, ma averlo costantemente Barzotto. Quello sarebbe costantemente Barzotto. Vabbè. Ok, vabbè, traffico, dai, traffico. Buonasera, non metti mano alle pistole, vero? A proposito di quello che vuole l'ascoltatore di prima, fra poco c'è una sorpresina, però non del tipo di quella che si aspetta l'ascoltatore di prima. Alessandro, Torino. Vai Alessandro, vai. Pronto? Sì, sì, ciao. Scusate, ero un po' in attesa, distratto. Allora, devo dire che è un onore intervenire a Radio 24 dopo uno sfogo così del professore che ammiro sempre quando fa i suoi, che ci lascia pillole di saggezza, devo dire. Ma chi, scusa? Comunque, professor Tornina. Ah, il professore, sì. Sì, sì, poi c'è stato questo scazzo di Parenzo che ogni tanto deve far vedere che c'ha le palle, allora... No, ricordare i fatti, poi io mi calmo da subito, ricordare che cosa uno sosteneva, perché sennò fatti, c'è l'incoerenza assoluta. Non parlo più, perché tanto... Però, a parte che ci potrebbe essere anche in teoria il diritto all'incoerenza, per cui non è quello... Eccolo, questo è già una missione. No, ma non c'è nessuna missione, non parlavo di questo caso, non parlavo di questo caso qua, non parlavo di questo... Stiamo parlando di due casi diversi, le sentenze passate in giudicato, le sentenze passate in giudicato, più sentenze, non sto parlando delle singole sentenze. Tu all'epoca dei fasti, stai quando zitto non un attimo, fammi finire, fammi finire che sto male, fammi finire cazzo, fammi finire, se no mi incazzo sul serio. Ci sono più sentenze adesso passate in giudicato, più sentenze su più fronti passate in giudicato, e dunque una situazione complessiva di una persona in galera, perché io non voglio in galera se le norme consentono a questa persona di uscire e non comitati o cricche di amici. Dunque c'è una sentenza complessiva, una situazione giudiziaria complessiva di una persona, e poi i casi singoli che in alcuni casi di fotografie possono essere ricatti e in altri casi possono essere un semplice scambio, punto. Ma io dicevo riguardo normale, a cosa non lo sai, non ti ricordi nessun dettaglio, va bene, benissimo, allora chiarito questo. Allora io... sì ti faccio sentire tutto quello che vuoi la settimana prossima, non ti preoccupare. E vedrai che allora, tu sostenevi che era giusto. Sì. Vuoi che sentire due ore e mezzo di una trasmissione? Parenzo, vuoi sentire? Vuoi la gente in galera? Vuoi la gente in galera? Mi sbeffeggiavi. Sì, sicuro. Tu ritenevi. Ritenevi. Hai voluto fare la questione su questo? Sei un poveraccio, dai. Vai a pescare l'audio se hai coraggio. Ma certo che vado a ripescare. Non ti sostenevi e fallo sentire tranquillamente. Forza. Non so se questo è un atteggiamento di Parenzo. Ma sì, ma ogni tanto. Tanto si vuole divertire, certo, a farmi sclerare, certo. È così, ma che devi fare? Certo. Allora, il mio intervento era, però adesso, stando l'ascolto... Una marea di delinquenti in galera, di gente normale in galera, adesso fa la battaglia per Corona, una cosa patetica, dai, Enzo, vai. Allora, guarda, su Cruciani io voglio spezzare una lancia in questa cosa, perché ascoltandovi, lui prima ha detto una cosa molto interessante, dice, quando è venuto Corona in studio, io lo faccio parlare perché è la mia tattica, è il mio modo di intervistare le persone, perché ritengo che Cruciani abbia questa dote innata, nel senso che quando fa le interviste porta le persone dove vuole lui, e questa è una dote. Vabbè, dai, Parenzo, adesso non siamo qui a fare la mia esaltazione, dai, forza. No, non voglio leccare assolutamente, però io ho chiamato per una cosa molto più importante, quindi tagliamo corto. Si parlava di sexy toys tempo fa. Allora, io dico che devo smettere di essere ipocriti, e per la buona vita sessuale di tutti un buon sexy toys nel comodino ci deve essere in tutte le cose. È quello che ho sempre sostenuto io. Bravissimo, e devi sostenerlo sempre, tu dovresti ricordarlo ogni giorno. Beh, una missione per te, Cruciani. Vabbè, ogni due giorni, dai. Diciamo che quando Parenzo ha questi sbiellamenti così, io mi impegnerò a spedirgliene uno in redazione. Ma lui non li usa, Ma difendo le mie idee al di là del sex toys. Un bel dildo anale, secondo me, guarda, credimi, Parenzo. Non è che mi scandalizza. Non credo di averli mai usati, ma insomma non mi scandalizza. Non hai mai usato? Neanche parlarne. Non hai mai usato? Ecco, vedi, neanche parlarne. Questo è l'atteggiamento classico. No, non mi scandalizza neanche parlarne, cioè non mi trova. Scusami, ho capito, non mi scandalizza neanche parlarne. Certo che il califfo. Certo che uno che non ha mai usato a 37 anni un oggetto, e non sai cosa ti perdi. Quasi 39. Sei indietro, Questo ancora non è un reato. Assolutamente si può rendere reato, anche non è un problema. I mariti devono capire che un cazzo di gomma può assolutamente salvare il matrimonio. Listen. voglio sapere quanto è arrabbiata donna assunta almirante per quanto è arrabbiata per la vicenda della casa di Monte Carlo. Donna assunta, buonasera. Buonasera, buonasera, buonasera. Non come sono arrabbiata per niente, perché non me ne frega niente. Beh, no, donna assunta, qualche cosa, un pizzico di arrabbiatura per una casa, no, che no, viene... No, no, no, non ne vale la pena. Ma questa casa, i miei nervi hanno molto, sono molto più importante di quello che può combinare un povero uomo. Un povero uomo, dice lei, cioè fini, dice. Povero si fa per dire, perché lui riesce ad arricchirsi con i beni degli altri, no? Cioè, lei sta dicendo una specie di un mezzo truffatore, dice lei, o no? No, non ho detto questo, assolutamente no. Lei mi vuole fare querelare? No, figuriamoci. E poi chi ce l'hai? Ma ci lascia querelare lei, perché no. Io non ho soldi da sprecare per un individuo di questo genere. Ma come lo considera? Appunto, dice un individuo di questo genere, che vuol dire? No, povero uomo, no, è uno che riesce a voler diventare per forza ricco con i beni degli altri, lo chiami scemo lei? No, lei dice alla fine un furbastro da un certo punto di vista. Ma certamente, ma sempre un povero uomo è. Ma scusi un attimo, questa storia secondo lei come va a finire? Cioè la casa la mettono in vendita a 1.600.000, è stata presa dal cognato a 300.000. Beh, insomma, se dovessero venderla a quella cifra, chi è che li incassa i soldi? Secondo me non è compreso nemmeno con 300.000, perché i 300.000 a mio avviso l'avranno presi altrove, magari nell'interno di via della Scrofa. Quindi... Ah, secondo lei manco quei soldi hanno cacciato fuori? Nemmeno questo, di tasca chi glieli avrebbe dato? 300.000 a questi signori. E vabbè, il cognato magari c'ha i soldi, la famiglia. E dove l'ha presi? Ma da dove gli venivano? Da quali beni? La famiglia Tulliani, che ne so. Ma certamente, ma fanno famiglia. Loro mica sono tanti scemi che vanno a utilizzare i soldi che sono propri. Dici, loro trovano sempre il sistema come utilizzare i soldi degli altri per acquisire beni propri. Certo che, donna assunta, qui abbiamo una signora che si chiama la signora Colleoni, no? Fa un lascito al partito. Questo bene finisce nelle mani del cognato del presidente della Camera. Lui dice che si sarebbe dimesso se fosse stato dimostrato che la proprietà era di Tulliani. Non è successo, ovviamente. E adesso, sfrecciando in Ferrari o comunque con macchine di lusso, il signor Tulliani rivende questa casa a oltre 1.000.000 euro. C'è da essere, come dire, non dico imbufaliti, invece lei è proprio... cioè è una cosa che proprio le entra ma non ne vale. Ma lei mi dice, se uno si arrabbia ci rimette la pelle, la salute, per chi poi invece incassa e va in banca e deposita i soldi degli altri che finiscono con soldi loro? Ma secondo lei questi ridicolo, soldi, no? Questi ma... soldi alla fine se li godrà o no, signor Fini? Io mi auguro di no. In che senso, scusi? È solo un augurio, che cosa ne posso sapere io se li godo o meno, scusi. Beh, tanto che ne so, sai com'è? Mica sono il padre eterno che so come andrà a finire. No, ma formalmente non vanno a lui sti soldi, però formalmente dal punto di vista, diciamo, no, al cognato. No, a lei non credo, cognato, vanno al cognato, appunto, cioè al fratello. Lei della dice moglie. Di no, che alla fine si ridividerà. Ma certamente, questo sparte ricchezza che poi gli resta povertà, perché mezzo a uno, mezzo all'altro, poi finisce il più furbo, se piglia il malloppo più grosso. Comunque è un affare che non ha nessuna rilevanza. Lei dice che si ridivideranno questi soldi? Eh? Lei dice che questi soldi della vendita della casa si ridivideranno? Ma certamente, e che vuole, che glielo danno a lei o a me? No, se li divideranno tra di loro, cioè il cognato. Ma certamente, non sappiamo nemmeno dove vanno a finire, già. Beh, ce l'hanno. Questo non lo sappiamo. A mio avviso, già c'hanno i soldi, c'hanno le case, c'hanno tutto. Ma come le case, scusi, cioè nel senso... Monte Carlo ce l'hanno, no? No, sì, ma la vendita. Una casa quella, che cos'è, un palazzo? Ma i soldi della vendita di Monte Carlo, della casa di Monte Carlo, 1.000.000, come dire, ma lei pensa che davvero la vende quella? Io non ci credo. Beh, poi come, dove no? Va? Come fa poi a girare con la Ferrari? Dove gira? Vabbè, però con 1.600.000 si fanno un sacco di cose, donna su. Vabbè, comunque, guardi, adesso c'è la pubblicità, poi... Ma quando è che fa 90 anni lei? Quando il padre eterno mi dice che io faccio 90 anni, tanto non risolvono né il mio né il suo problema, le lascia stare e andiamo avanti fino a quando il buon Dio mi dà mente, soprattutto che mi mantiene il cervello. Quello, guardi, gliel'auguriamo alla grande. Un attimo e solo. Allora il resto non ha nessuna importanza. Ferma lì, pubblicità. Allora, Abbiamo con noi Donna Assunta Almirante, molto arrabbiata, in realtà non troppo, per la vicenda della casa di Monte Carlo, dopo la scoperta della sua vendita, o comunque della possibilità che sia venduta a 1.600.000 euro, casa comprata dal cognato di Fini per 300.000 euro. L'ha comprata da chi? Da chi l'ha comprata? Beh, l'ha comprata dal partito. Comprata dal partito. Dal partito. Ma chi gestiva la cassa del partito? Il partito. Non mi faccia ridere, guarda. Lo so, non mi faccia ridere, perché essere presa per i fondelli anche da voi è una cosa. No, troppo, ma quello è quello che si sa dai giornali, perché secondo lei. Vabbè, ma lei li crede un po' a questi, e questi fanno il tempo, scusi. E ci vogliono indorare la pillola. Scusi, come mi andò? Sono fregate la casa, se la sono venduta, se la sono ricomprata, ed eccoci qua. Cioè, se la sono fregata direttamente, secondo lei? Senza direttamente, se la sono fregata direttamente. Senza pagarla. Senza pagarla a nessuno, tranquilla e beata, glielo può dire a nome mio, No, per carità, se lei lo sa. No, io non è che lo so, lo penso che è così. Ma così sarebbe una truffa clamorosa. Penso che è così. Sarebbe una truffa clamorosa perpetrata dal signor Fini, per esempio, o no? Ma non sappiamo niente, non possiamo dire queste cose, perché io querelle non ne ho bisogno di per riaverne, no? Ma se lo vedo ogni tanto in televisione e torna. No, proprio non mi interessa nulla, si figura se ho voglia di vedere lui. Ma vedo tanta di quella gente che nella mischia non ci starebbe. Ma se lo incontra per strada, che fa? Niente, mi saluta e lo saluto, che vuole che gli dica? Ma lo piglia a schiaffi, non è possibile. Ma no? Che ne so, a schiaffi no, che ne so, cioè magari. Ma niente, non è guardabile. Cioè, come non è guardabile? Uno che ha avuto la fortuna di avere un incarico così grosso, così importante, così non è stato all'altezza di saperselo tenere, quindi merita quello che ha seminato, no? Ma ormai è finito come politico, sì? Ma certo, dov'è? Chi lo vede? Se lo chiede lei a Canale 5 gli rispondono che non lo conoscono, eh? No, però scusi, lo invitano ogni tanto. Però. Ogni tanto lo invitano in qualche trasmissione. Alla ma chi lo vede alla ma non lo vede più nessuno. Beh, ancora l'ufficio a Montecitorio, Ancora un ufficio vabbè, a Montecitorio. Ma che vuol dire questo? Che uno c'ha un ufficio, avrà pure una casa da dormire, no? Beh, sì, quello sì. No, l'ufficio com'è? Mica lo vuole stare ai mercati generali. No, no, poverino, perché? Prende freddo, gli arriva la polmonite, poi ci conviene portarlo in ospedale, curarlo. No, veramente. Senta, ma lei chi vede come persona, come dire, che il suo sogno al Quirinale, chi è? Devo confessare che è un punto interrogativo, Cioè? Mentre le altre volte abbiamo detto Tizio, Caio e Sempronio, questa volta purtroppo non ha un nome, non lei. Abbiamo possibilità di vedere nessuno. Cioè, lei non ha un nome? No. Ma uno che vorrebbe che fosse al Quirinale, che ne so? Non lo trovo. Non trova nessuno? No. Prodi no. No, è Prodi troppo perché? Vecchio. È troppo vecchio. Amato? Ma nemmeno, Amato è pure consumato, non è il caso. E l'almirante, la Finocchiaro? La Finocchiaro, le devo dire che l'ho pensata, la Finocchiaro. È una donna che stimo ed è una donna che potrebbe essere qualcuno. Vedi che abbiamo trovato un nome, però. Sì, la Finocchiaro senza dubbio. Ma come mai la stimo? Una di sinistra, così? Come? Una di sinistra. Ma non ha importanza. Oggi non dobbiamo vedere se c'è una destra o una sinistra, non c'è né una sinistra e né una destra. Ma ci sono semplicemente delle persone che consideriamo che possano essere all'altezza del proprio nome, ma non riferendosi ai partiti. Ma scusi un attimo, che ne so, un nome della destra. La destra non ha un candidato possibile. Ma non c'è una destra, non vabbè, c'è ma una la destra intendo uno di Forza Italia. Io sto dicendo, non c'è più nessuno che non c'è più nessuno. Un partito. Lei si deve riferire ad una persona che deve rispondere del suo nome e del suo modo di comportarsi. Oggi non ce ne sono sulla piazza persone degne di essere considerate alla possibilità di poter mantenere il rispetto di un nome di un partito che loro avevano. Senti, non ci sono più. Senti David, ma non dici nulla alla signora Assunta della cosa? Non dici sì, nulla. Per carità, ma sono tutte quella della casa, chi se ne frega, no, ma che riguarda una cerchia di. No, non dici niente alla signora Assunta del busto dell'ammirante, eccetera, quello che. Ma se c'entra, quello l'hanno rubato, io l'ho rifatto. Ma l'ha rifatto. Tutto l'ha rifatto ancora, va bene, basta, si tenga il busto, va benissimo. No, ma l'ha rifatto? Tutto, l'ha rimesso? Certo, è da quel dì che c'è, dopo manco 24 ore è stato rimesso. Nessuna, siamo tutti felici, nessuna tutti notizia felici. Del busto originale? Nessuna? No. Niente, l'hanno rubato. Ma quanto vale quel busto? Ma chi se ne frega? Ma il valore è grande. lei dice. Il valore è grande, non c'è prezzo, quindi qualcheduno, giustamente, che forse lo amava tanto, che se l'è portato a casa. Ah, tu, lei dice un furto d'amore. Un furto d'amore. Furto d'amore, un furto questo d'amore, non credo. Mi lasci pensare questo. No, però è vero, è possibile. Va, pensi questo. È possibile che un fanatico, una... Certamente. Certo, certo. Perché non è possibile, assolutamente? No, ma per carità, benissimo. Ma assolutamente. C'è tanta gente in giro che fa qualunque cosa. Pensando a questo. Vabbè, l'amore di moglie. Donna Assunta, a presto, arrivederci. Arrivederci, caro. Buona giornata arrivederci. A voi. Arrivederci. Saluti, ciao, saluti. Ciao. Ai, ai, ai. Rocco Siffredi prima di approdare all'isola. Should I stay or should I go? If you say that you are mine. Io ho 13 anni. Ho trovato i giornalini di Super Sex, i Fix Chen Chen. Andavo giù al mare da Ortona, i camionisti buttavano questi giornalini, io li recuperavo. E alcuni di questi erano già impaginati, cioè gialli, perché erano attaccati, appiccicati. Me li prendevo comunque, mi strappavo le pagine pulite, vedevo che c'era lui, sempre lui, che sono tutte lui se le tromba. Poi alla fine mi dico, io devo fare sto lavoro. Ma tu te lo ricordi chi era l'attore di quei giornalini? No, l'attore? Super Sexy si chiamano, mi sembra. No, te lo ricordi no. O no? Beh, no, ragazzi, ma siete veramente ignoranti. No, non mi ricordo. C'è un'ignoranza crassa. Un'ignoranza crassa. Cioè, i giornalini che cita con i Fixed Chant Chen. Dai, ragazzi, su, scatenatevi voi con i messaggi, con le cose. Lo sapete chi è? Si chiama Gabriel Pontello. Gabriel Mai Pontello. Sentito. Ma dai, su. Parenzo, tu da quant'è che non scopi? Pontello. Gabriel Pontello, dai. Gabriel. Allora, vediamo. parla anche. No, aspetta, ancora Siffredi. Sai perché odiava i boxer al è mare? È un attore, non ho mai visto questo. Senti, Gabriel Pontello, forse è ancora vivo, sarebbe da intervistare. Ho odiato il periodo dei box, del costume a box, perché ogni volta che arrivava una milanese, una romana, ciao come ti chiami? Boom, partiva duro e io mi giravo di lato, di così, o mi buttavo in acqua. Ma questo non esce mai dall'acqua, non esci fuori. Cioè, era surreale. Poi suo padre, senti. Il cuore è di mamma. Non voglio dire quello di papà, ma sicuramente il virus me l'ha passato. Mio padre era prova vivente, e gli puoi dare tutti gli antidepressivi al mondo, non funzionano. Mettili una bella figa a fianco, boom, rinasce. Ma parla anche la moglie Rosa Siffredi, ex pornostar ungherese. Senti che dice sulla prostituzione e i matrimoni, è fondamentale. A me non mi dà fastidio, anzi io le prostitute le darei stato a tutti, perché servono anche tanti un matrimonio così, perché se lui ha bisogno di più, preferisco che vai con la mignotta che tiene un amante, che lì quando c'è l'amante subentra anche la sentimenti. Poi fa una confessione: non ho mai detto a Rocco di smettere. Sapete che lui ha detto che va in astinenza, adesso ha fatto un fioretto all'isola per togliersi da questa malattia del sesso. No, io non le ho chiesto di smettere, mai. Anzi, io ho detto scusa che lo facciamo dopo, perché io tuoi ritmi non ci sto. Michele da Pisa, Michele, vai. Parenzo, titolo del 24 ore di domani, Parenzo massacra Cruciani. Sì. Voto 10. Bene, ottimo. Vai. E poi, seconda cosa. Sì. Volevo dire, interpreto il tuo pensiero, Cruciani. Io credo che tu voglia dire che Corona non è il, diciamo che non è che lo vuoi in carcere, però non è giusto secondo te che si vada in televisione, nelle radio, nei giornali a dire che lui deve uscire, perché non è giusto, perché è vero che sono i tribunali che devono decidere, ma naturalmente l'opinione pubblica influisce i giudici e una pressione mediatica potente. Ma i giudici secondo me se ne sbattono, però in alcuni casi potrebbero anche subire. Però sì, la pressione mediatica influisce, secondo ma me. No, in alcuni casi sì, in altri no, dipende. Potrebbe essere anche controproducente in alcuni casi. Ah, è vero. Secondo è vero, me vero. Il tipo di difesa, non degli avvocati, che viene fatta su Corona è controproducente. Questa è la mia impressione, però. Però penso che non sia giusta. Cioè, nel senso, un carcerato è uguale a un altro. Quindi non è giusto che uno che abbia la pressione mediatica... No, ma infatti, come diceva Parenzo prima, questo... non è che... Cioè, chi è in condizioni simili a quelle di Corona? Se ci sono i... come dire, se ci sono i... Le condizioni, se ci sono le circostanze, se è giusto, cioè se uno sta male, adesso francamente mi sembrano un po' deboli le cose portate avanti dalla difesa, cioè quando dice che è una personalità narcisista, mi sembra, non ho letto i referti, mi sembra in apparenza un po', cioè non è che dice è malato gravemente, non può sopportare la situazione carceraria, posto che in carcere si sta male, mi sembra che sia una situazione psicologica, non dico normale, ma certamente molto comune per chi è in carcere, e dunque non mi sembra che ci siano le condizioni. Detto questo, non conoscendo le carte, dico che se ci sono le condizioni, al contrario di quello che dice Parenza, che io lo voglio in carcere, non è vero che lo voglio in carcere, se ci sono le condizioni ovviamente può uscire. Io non ho mai detto, anche l'altra sera a Matrix non ho mai detto che voglio Corona in carcere, ho detto che voglio Corona voglio che Corona abbia lo stesso trattamento degli altri, che non abbia privilegi rispetto agli altri, poi si parlava di altre cose, e che ci sono le condizioni, dal punto di vista del diritto non ha nessun privilegio rispetto agli altri, ma chi l'ha detto? Assolutamente no, perché viene applicata la legge per lui come per gli altri 30.000, 10.000, 4.000 allora che chiedono di uscire dal carcere, quindi non ha nessun privilegio. È la pressione mediatica che fa la differenza. Non c'è pressione però. Mediatica. Beh, sì, l'unica differenza c'è, allora, c'è un'attenzione mediatica, non una pressione mediatica. C'è un'attenzione mediatica e poi c'è una mettetevi d'accordo con voi stessi, altrimenti è difficile discutere. Allora, se sì, perché c'è una logica. Allora, se si dice che c'è una pressione mediatica, vuol dire che a seguito di questa campagna supposta di stampa, Corona sarebbe fuori dal carcere. No, ma chi l'ha cosa detto? Che non c'è. Ma chi l'ha cosa detto? Che non esiste. Ma chi l'ha detto? Ci sono, cioè, invece... la presenza di una pressione mediatica non è che per forza deve essere. Esatto. E quindi, cioè, non è che necessariamente parlare del scandulisce. Caso Corona può servire per parlare anche dei tanti casi Corona, di persone che potrebbero va bene, scontare Michele, la pena fuori. Ho capito tutto, Enzo. Un'ultima cosa, fatemi dire un'ultima cosa. Sì. Una cosa controtendenza, viva il traffico perché c'ha una voce sexy. Vabbè, dipende chi lo fa. Sexy. Dipende deve chi lo fa. Una gnocca, la conoscete mica? No, non la conosciamo perché non è qui da queste parti, da un'altra parte, però vabbè. Guarda che spesso le voci ingannano, le voci ingannano moltissimo, però le devo dire che non è fatto del traffico sempre da una donna, spesso è fatto da uomo. Ah, già, è vero. Però magari c'è una voce maschile interessante per qualche ascoltatrice femminile. Vai, Enzo, Asti, Enzo, ragazzi. Vai, Enzo. Ciao Beppe, scusami, ciao. Io volevo solo dire una cosa, io sono pro Taormina e pro Adinolfi, ma io volevo chiedere a Parenzo. Se ti piace così. Ma ascoltami, ma ognuno segue i suoi gusti. Ma no, ma tu non ti fai schifo quando ti guardi allo specchio, sai perché? Te lo guarda, se mi considero mi deprimo, ma se mi paragono in questo caso mi esalto. Io guarda, io farei di tutto per venire lì in trasmissione, ti aspetto. Io ti prenderei a sberle. Ti sai aspetto perché? Qua, perfetto. Ascoltami, ecco il pacifista. No, non sono, ma guarda, io non sono un violento, io sono un camionista, io sono in una piazzola. Che c'entra adesso, cosa fermo. Fa uno di là? Ascoltami. Se a me stasera, io mi sono svegliato alle 3:30, mi viene a bussare un gay e io gli dico ascolta, ciao, vai, e poi mi fa incazzare, mi ribussa di nuovo, io ho un sonno della Madonna, sto dormendo, scendo, gli dico che è un finocchio di merda, gli pianto due schiaffi, come mi tratti? Cioè, tu discrimini non me. Come ti tratto io, finisci semplicemente sotto processo, perché hai dato due schiaffi a una persona. Ma è lui che e in più lo hai anche insultato in modo sessistico. Insomma, quante volte ti capita di essere che ti capita un sacco di volte. Io guarda, a me non danno fastidio, perché ci sono gay e gay, ci sono gli omosessuali che sono delle persone normali. Io ho una moglie e un bambino a casa, quindi sono una persona normalissima, non rompo cazzo allora... nessuno. Quando io mi fermo, io non voglio che nessuno mi venga a bussare. Beh, questo alla è legittimo. Mattina, questo perché è giusto. Mi rotti i coglioni. Allora mi fai diventare cattivo. Ma quante volte cattivo? Succede che ti bussano al camion? Scusami. La maggior parte delle volte, non tanto in autogrid, ma quando tu purtroppo finisci le ore. Ti devi fermare nelle piazzole, sai le piazzole grandi che le famose piazzole, ormai le conosciamo cazzo, tutte. Ti vengono a bussare, guarda che quando te lo dicono ma i colleghi. Ma come vengono? Spiegami, come ti vengono a bussare? Vengono, ti bussano, ti chiedono se vuoi compagnia o c'è il volgare che ti tira fuori la lingua. A me fa schifo, cazzo. A sentire Parenzo è solo pro finocchi. No, un momento. Pro zingari. A me cosa fa zingari? Uno ascoltami, a casa non mi interessa, cosa fa sotto le coperte può fare quel che vuole. Ascolta, basta non insultare. Ma ascoltami, ascoltami Parenzo, io l'altro giorno ero a Genova, ho suonato a una macchina che mi ha superato a destra, sì. Si sono fermati, erano due dell'est, ma zingaracci, ti ammazzo, mi ha detto, a me mi ammazzi, pezzo di merda, io sono a casa mia, bastardo di merda, e tu mi ma dici... Ma non è casa mia, casa tua, è semplicemente due pazzi quelli lì, ma non è questione di casa mia o casa tua, è questione che quei due lì sono due criminali, però, evidentemente. Scusami, ascolta, io ho lavorato all'estero, con mio padre, ho lavorato nei paesi musulmani, ok? Io ho capito, ma quanti, ma quanti sono sti gay che vengono ogni volta? Sono tanti? Un bordello, ma come notte. Vengono? Che fanno? Coi soldi di fuori? Che fanno? No, no, senza soldi di fuori. Parenzo, qualcuno... vai a fare sto viaggio, pare, damo, perché, vai non a mi fare sto viaggio, per niente, vai non a mi fare questo viaggio, invece di pensare alla Grecia, invece di pensare all'estero, invece di pensare al Parlamento Europeo, vai a fare un bel viaggio con i camionisti, con Enzo D'Asti che ti porta nel mondo dei gay nelle piazzole, e andiamo. Questo, ma non ci penso queste sono le grandi inchieste, non quelle che minimamente, fai. Dai, minimamente. Ragazzi, abbiamo chiuso stasera, Enzo, grazie, ci sentiamo lunedì. Ti posso lasciare con un mio slogan? Lasciami con il tuo slogan, dai. Al posto di un cannone preferisco cocomero melone. Ma che stai a dire, Aniceto, dai. No! Cioè, allora, ti spiego. Voi ci dovete far sbellicare, che noi lavoriamo di brutto fino alle 7 e mezza, lei ha ragione, lo dica a voce alta. Chi sente la zanzara vuole sbellicarsi. Quando sono al castello di Carisio voglio ridere. La patata tira più della Confindustria, te lo posso assicurare. A me fa cagare un mondo così fa cagare. Radio 24, la passione si sente. Cruciani non offende mai nessuno.